La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16, 29 primi, anzi e 30 primi esattamente in questo secondo. Dallo studio di Milano vi ringrazio per l'ascolto come sempre Oscar Giannino, vi auguro un buon pomeriggio. E vi ricordo l'indirizzo della versione dell'Oscar @radio24.it, venite ancora a segnalarci la vostra disponibilità per le puntate che stiamo facendo, più o meno due settimane come ascoltate, dedicate alle storie di chi se n'è andato dall'Italia e soddisfatto ci spiega perché. Come di chi invece è tornato e ci spiega il perché, o chi avendo fatto esperienze comparate ci dice no, io resto qua, e anche lui ci spiega il perché sullo sfondo, come è evidente, non solo i problemi della bassissima crescita italiana, gli sviluppi di oggi li conoscete, la risposta con le 85 pagine mandate dal governo italiano alla Commissione europea di fronte alla richiesta di una correzione del deficit 2017 di 3,4 miliardi sono giudicate insoddisfacenti dalla Commissione europea, perché il governo, che pure ha detto se ci costringete, in parole povere, la facciamo per tre quarti con maggiori entrate, tanto per confermare che le tasse scendono, ma al di là di questo non ci si prende nessun impegno da parte del governo sul come farla e quando farla, cioè si dice nel corso dell'anno, e se nel corso dell'anno non si corregge il deficit del 2017 vedremo su questo cosa ci dà la Commissione europea. Sullo sfondo di questa puntata che noi facciamo, il problema che è quello della giustizia intergenerazionale in Italia, che non funziona, non funziona perché si è bloccata negli ultimi anni, però oggi il tema, ve lo dico, inizierò a dedicare anche una serie di puntate al di là della cronaca quotidiana al tema che vi divide. Io lo so, per questo è un po' di mesi che ne parlo praticamente solo il sabato ai Conti della Belva con Carlo Alberto Cannavale Maffè e Mario Seminerio, perché so benissimo, lo vedo dai messaggi, quanto oramai siete come ascoltatori, ma come italiani, divisi e spaccati frontalmente come se due partiti ideologici si contrappongono. A me questa cosa della contrapposizione ideologica non piace troppo, soprattutto come una materia che è quella di cui inizieremo a vedere volta per volta alcuni degli aspetti. Naturalmente vi chiedo l'opinione. La materia delicata è l'euro e l'Unione Europea. L'euro e l'Unione Europea. Lo so benissimo che molti di voi siano convinti in questi ultimi anni, seguendo instancabili propalatori della tesi, che se sta meglio se torniamo alla lira, si sta meglio se torniamo a svalutare perché questo aiuta le nostre esportazioni. So benissimo che l'Unione Europea affronta problemi che io definisco tragici, cioè su un impianto decisionale inefficiente abbiamo innestato problemi divisivi, l'effetto che c'è stato in tutto Centro Europa di quella dichiarazione dell'estate 2015 della Merkel di aprire ai rifugiati siriani e afghani senza aver messo in conto cosa succedeva nei corridoi dei paesi che dovevano attraversare, ha portato a un'ulteriore crisi del processo decisionale europeo, ha portato ai muri, ha portato alle proteste di molti governi. Questi governi vanno da tutta la cintura est dell'Unione Europea al crescere nei diversi partiti, nei diversi paesi di partiti che prendono voti per scelte nazionali e non più comunitarie e scelte anti-euro. Vedremo cosa sceglie la Francia a fine aprile, inizio maggio, dove la Le Pen intanto è in testa ai sondaggi per il primo turno e vediamo chi è al secondo turno a contrapporgli. Ieri c'è stato il voto del Parlamento britannico, obbligato dalla Corte Suprema che ha imposto al governo May un voto del Parlamento britannico per attivare l'articolo 50 della Brexit dopo il referendum. E io ho trovato particolarmente interessante, mi ha molto colpito il fatto che i giornali italiani, la sinistra italiana, il PD soprattutto, ma anche i giornali italiani, non abbiano notato una di quelle che possono sembrare un'apparente contraddizione, perché nel voto che c'è stato al Parlamento europeo i deputati laburisti di Corbyn, accusato dal suo partito di aver fatto una campagna troppo tiepida per restare in Europa, e come uno dei fattori quindi che ha portato poi alla vittoria del Leave, dell'uscita dall'Unione Europea nel referendum britannico, ebbene la stragrande maggioranza dei deputati laburisti ha votato per l'attivazione dell'articolo 50. Dire la verità, Corbyn li aveva invitato a votare per questo, cioè 169 hanno votato coi conservatori per attivare l'articolo 50, che sapete è l'articolo del trattato che apre poi 2 anni di trattativa per definire le condizioni dell'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, e la stessa procedura che dovrebbero seguire tutti i paesi che decidessero di uscire. 169 hanno votato a favore, solo 47 contro. Allora, che il PD e la sinistra europea europeista non dicono niente su questo, dall'idea delle loro difficoltà nel sostenere questa la tesi, invece che l'Europa funziona. Infatti neanche la sinistra difende più questa tesi. Se avete visto, Renzi ieri ha formalmente dichiarato guerra anche lui all'eccesso di surplus tedesco del 6%, un tema di cui sentite spesso parlare Sebastiano Barisoni dopo di me nel suo Focus Economia, ed è singolare che Renzi però non lo abbia fatto da Presidente del Consiglio, lo fa adesso da segretario del PD. Peccato che i consiglieri economici di Renzi non gli dicano che il più del surplus economico della bilancia commerciale, voglio dire, tedesca, si faccia fuori dall'Europa e non dentro l'Europa, quindi non squilibra l'Unione Europea, ma è fatta di fette di mercato fuori dall'Unione Europea. E peccato che non gli dicano che da 5 trimestri la crescita tedesca, molto più sostanziosa della nostra, in realtà ha un contributo netto dalla domanda estera, cioè dall'export e dal saldo di export su import, che è zero, mentre è trainata esattamente da ciò che i critici della Germania chiedevano alla Germania di fare, cioè è trainata la crescita tedesca dall'aumento della domanda interna, cioè l'aumento di salari, che significa più consumi, e dall'aumento degli investimenti, non dal surplus della domanda estera, che dà un contributo zero alla crescita tedesca da 5 trimestri a questa parte. Quindi, in altre parole, la Germania sta facendo ciò che i critici dicevano e chiedevano alla Germania di fare. Io lo so che tutti questi argomenti sono argomenti tecnici, pallosi, e che è più facile dire meglio uscire e basta con l'Unione Europea dominata dai tedeschi. Io lo so che... Quindi, a dire la verità, ma ciò malgrado, di volta in volta, quando vedrò pezzi del ragionamento che è utile a tutti fare, sia la vostra convinzione graneticamente oramai per il ritorno della lira, sia invece una convinzione che dice l'Unione Europea non funziona, questo è oggettivo, però bisognerebbe migliorarla, tentiamo di migliorarla e di capire anche che l'euro è servito a qualcosa anche per l'Italia, perché ci ha fatto pagare meno interessi sul debito pubblico, eccetera, eccetera. Quando vedo pezzi di ragionamento di questo tipo, mi candiderò a portarli in trasmissione con altri esperti, quindi senza ammannirvi le mie convinzioni, perché so che questo non sarebbe un buon aiuto alla causa ma però di volta in volta proverò a fare un ragionamento sperando di non ottenere ondate contrapposte di insulti, perché questo è un tema che sui social divide oramai in una maniera infernale, eh? Invece io quello che mi propongo di fare è ragionare. Allora iniziamo a ragionare partendo da 2 articoli che oggi sono pubblicati da l'inchiesta www.l'inchiesta.it e l'inchiesta col K, che entrambi secondo me danno un buon contributo alla riflessione. Quindi nella prima parte della trasmissione avremo un autore, nella seconda parte ne ho invitato un altro, contributo alla riflessione vostra su 2 aspetti dell'euro e dell'Unione Europea da considerare. Il primo aspetto è il seguente: ma visto a chi elogia la necessità di una svalutazione che ci aiuterebbe, ci farebbe stare meglio, parentesi, ieri Mario Draghi, presidente della BCE, ha detto testuale: i paesi che hanno problemi di produttività bassa per ragioni strutturali proprie, trattino legge l'Italia, trattino, anche se non ne ha fatto nome, non vedrebbero il loro problema risolto dalle svalutazioni monetarie, chiuse virgolette, punto. Allora voi direte: beh, lo dice Draghi che sta alla BCE, non ci credo. Ok, d'accordo. Però guardate che vi invito a chiedere a chi vi dice il contrario di produrvi le serie storiche di paesi che con svalutazioni monetarie hanno risolto i problemi strutturali della competitività, cioè la produttività multifattoriale, del fattore umano, del capitale finanziario, degli intangible, la somma di tutto questo insieme ai processi organizzativi produttivi e la produttività multifattoriale di un paese. Se ne trovate buoni esempi, allora portatemeli qua, perché ne ragioniamo. In caso contrario, ricordatevi che nelle disvalutazioni della lira noi siamo andati in ginocchio negli anni 70, dopo l'epoca eroica che si concluse con la crisi del 63, quando avevamo una lira stabile e cresciamo tantissimo dopo la seconda guerra mondiale. Svalutando abbiamo fatto esplodere il debito pubblico, abbiamo abbassato la produttività, abbiamo avuto un'inflazione fino a doppia cifra, e ricordate che l'inflazione a doppia cifra, o anche quando è elevata, comunque aiuta chi ha molti debiti, cioè lo Stato, le imprese indebitate, perché il valore reale di quei debiti con l'inflazione diminuisce, ma è una tassa sui poveri e su chi sta peggio, perché diminuisce il potere reale d'acquisto di chi ha i redditi più bassi. Questo più o meno è quello che si studia, no? sui manuali, ricordiamocelo. Allora, su questo primo aspetto, ma dal punto di vista dei prezzi e del potere d'acquisto degli italiani, l'euro e la globalizzazione hanno davvero fatto del male agli italiani, come sostengono alcuni, o piuttosto, se guardiamo i dati, abbiamo un'altra evidenza? Ecco, un articolo dedicato a questo tema sull'inchiesta è stato scritto oggi da Gianni Balduzzi, e cominciamo quindi con lui. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a lei. Dica ai nostri ascoltatori lei cosa fa nella vita per scrivere con competenza di questi argomenti. No, così lo dice lei. No, io collaboro con l'inchiesta e altre pubblicazioni su temi economici, e nella vita faccio il consulente, ho comunque una formazione economica. È una formazione universitaria economica. Allora, cosa si vede guardando negli anni dell'euro rispetto al potere d'acquisto degli italiani? In altre parole, con la stabilità di prezzi arrivata fino alla deflazione, quindi un'inflazione bassa, garantitaci dall'euro, gli italiani ci hanno rimesso o ci hanno guadagnato? Ma allora, quello che noi vediamo come una costante è il fatto che i vari prezzi dei beni, diciamo, importati, sì, in generale i beni manufatti, che sono tra quelli importati la maggioranza, molto più dei servizi, hanno costantemente un tasso di aumento, quindi diciamo un'inflazione interna minore della media e minore dei servizi. Cioè tutto ciò che arriva in Italia dall'estero normalmente costa meno di quello che viene prodotto all'interno per gli italiani, e non solo, costa meno rispetto all'anno precedente, chiariamoci. Per cui ad esempio rispetto ai servizi come ad esempio l'abitazione, rispetto ai servizi ricreativi, ai trasporti, eccetera, in cui non vi è possibilità di importare quasi alcunché, i beni dagli alimentari piuttosto che all'abbigliamento e così via, in questi anni sono cresciuti molto meno. Quindi ad esempio, visto che abbiamo detto giustamente che l'inflazione è una tassa sui poveri, i poveri hanno potuto rispetto alla media di tutti i prodotti acquistare questi beni molto più favorevolmente di quanto potevano prima. Ad esempio rispetto, per esempio, all'affitto, rispetto a tutto ciò che viene fatto in Italia, viene prodotto come servizio in Italia, gli italiani hanno potuto approfittare di un minore costo dei beni esteri. Poi questo naturalmente può essere giudicato positivo o negativo. Adesso per esempio si punta all'indice contro la deflazione, cioè da ricordare che una cosa particolare, fino a pochissimi anni fa c'era un po' il mito del raddoppio dei prezzi con l'euro, quindi bisognerebbe anche un po' mettersi d'accordo se questa inflazione così bassa adesso è una cosa positiva o negativa. Io sono tra quelli che pensano che l'inflazione in realtà sia un effetto della crisi e non certo la causa della crisi, sia uno dei tanti sintomi di una maggiore globalizzazione, un po' di crisi di domanda, un po' di aumento della tecnologia, ma non sia certo questa la causa della crisi. Del resto anche coloro che lo affermano fino a poco tempo fa li trovavamo a gridare contro l'euro che provocava aumento dei prezzi. Ecco, quindi questo è un fatto. Se noi paragoniamo i prodotti italiani, che guarda caso sono prodotti in un paese in cui c'è poca liberalizzazione, meno concorrenza, quindi di fatto i servizi, vediamo che li paragoniamo a ciò che viene dall'estero, noi abbiamo potuto avere beneficio dal fatto che sempre un numero maggiore di beni veniva da fuori Italia, altrimenti avremmo avuto inflazione più alta e avremmo avuto, non so, per esempio, i beni come abbigliamento o alimentari che aumentavano come sono aumentati gli affitti, come sono aumentati, è aumentata l'istruzione e i servizi sanitari, questi soprattutto. Nonché le tariffe amministrate, tipo quella dei trasporto pubblico locale e così via. Quello è il maggior contributo alla lotta alla deflazione che viene dallo Stato, cioè quello che ci offre lui costa molto di più di anno in anno. Lo stanno facendo per il nostro bene, visto che la deflazione è male. Naturalmente allora... è ironica la nostra osservazione, però. In altre parole, cari ascoltatori dal reddito più basso, con la stabilità dei prezzi dell'euro avete guadagnato, difeso, ma guadagnato in potere d'acquisto, con i prezzi amministrati dallo Stato, quello che i sovranisti vogliono, il ritorno alla politica nazionale, aboliamo la separazione tra Tesoro e Banca d'Italia, che la Banca d'Italia torni a monetizzare il debito, perché questo ne rende bassissimo il costo, questo è quello che vi ripeto, no? Ecco, invece quella è la componente che vi ha fatto perdere potere d'acquisto, lo dicono i numeri, qui sono tutti dati Istat, se andate a vedere sull'inchiesta c'è un corredo di tabelle per valutare i prezzi all'import per i beni durevoli, per i beni non durevoli di consumo e così via, e vedrete che sono serie ufficiali di numeri, non c'è nessun trucco nel ragionamento che fa qui anche solo oralmente togliendo i beni energetici che sono molto diminuiti, diciamo che potrebbero inquinare i dati dei beni, guardando quelli nudi solamente di beni alimentari o piuttosto dell'abbigliamento, comunque risultano inferiori dell'inflazione media e al netto degli energetici, perché poi chiaramente quelli hanno un po' una storia a sé. Ma lei conclude con un argomento che non piace per definizione ai euro, perché dice c'è anche un altro argomento, perché poi la forza di una moneta dipende dai mercati che esprime nel sottostante. Beh, certo. E quindi credere che un ritorno alla lira ci renderebbe, diciamo così, forti, ancora più forti rispetto al dollaro, beh, insomma, è un azzardo. Ecco, mi limito a una gentile perifrasi, perché non è un azzardo, ma è quello. Perché? Beh, noi ci ricordiamo quando la lira subì l'ultima svalutazione nel 92. Noi dobbiamo pensare che nel 92 l'Italia nel panorama economico internazionale era un paese molto più forte di oggi. Venivamo da un periodo in cui il nostro PIL pro capite sembrava aver superato quello inglese, no? La famosa gara tra Craxi e la Thatcher, eccetera. Allora noi eravamo molto al di sopra della media della europea come reddito e anche come consumo all'incirca il 20% superiore. Oggi siamo molto al di sotto, mentre dal 95, diciamo, il PIL europeo è aumentato del 35-40%, il nostro solo del 10%. Possiamo immaginare che se allora avevamo dovuto subire, a causa del debito che aveva raggiunto il 110%, a causa della nostra fragilità, un declassamento e l'uscita dallo SME, possiamo immaginare oggi, quando siamo in posizione relativa ancora peggiore, il debito è salito al 133%, possiamo immaginare quale potere di contrattazione, quale potere soft power, hard power, come possiamo immaginarlo, possa avere la nostra moneta internazionalmente, se allora non eravamo riusciti a fare. Un conto è il dollaro e un paese come gli Stati Uniti, che può anche permettersi di tornare un po' alla moda degli anni 30, diciamo all'autarchia, e magari nel breve periodo potrebbe anche avere successo, perché può produrre all'interno qualcosa che adesso in parte viene prodotto all'estero, e ha un mercato interno di 330 milioni di persone, in gran parte in media più giovani e poi diciamo con lo shale gas non è nelle stesse condizioni di dipendenza energetica che aveva negli anni 70. L'Italia sovrana è una cosa abbastanza improponibile, al massimo potrebbe esserci, come avevo scritto, un'Europa sovrana, i nostri sovranisti potrebbero essere soddisfatti se potessero battersi per una sovranità di una entità grossa come gli Stati Uniti, ma questa entità grossa come gli Stati Uniti è proprio l'Europa, quella che loro odiano. Beh, però stiamo andando in direzione opposta, quindi il problema sarà, mentre la prima parte guarda i numeri, queste sono considerazioni ovviamente che uno poi è libero di fare o meno, però insomma il peso dei mercati sottostanti esprime la forza e la stabilità di una moneta, ovviamente a patto, ma questo lo aggiungo io, che tifavo per le obiezioni di Martin Feldstein fino al 1995-96-97, perché funzioni davvero un'area monetaria, bisogna unire davvero i mercati, renderli vasi comunicanti, i mercati del lavoro, dei beni e dei servizi. Noi invece questo è stato l'errore che non abbiamo fatto. Tutti vi ripetono, è la politica che manca. La politica può essere anche una, ma se i mercati del lavoro, dei beni e dei servizi restano segregati dal punto di vista nazionale a differenza di quello dei capitali, comunque quando arrivano gli shock, siccome i paesi restano con curve di costo diverse, gli shock sono asimmetrici. Naturalmente so che siete tutti contrari a unire davvero i mercati dell'offerta di beni, servizi e del lavoro, perché vi hanno spiegato che la concorrenza dell'idraulico polacco bisogna dire no. E a quel punto, se vogliamo tornare indietro, torniamo indietro. Basta che sappiamo che cosa facciamo e poi non ci lamentiamo dei costi. Intanto grazie a Gianni Balduzzi per questo primo articolo che riguarda cosa significa la stabilità di una moneta sul potere d'acquisto di chi ha più bassi redditi. Traffico, e poi andiamo al secondo punto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. La versione di Oscar. Allora, nel frattempo le agenzie, cari ascoltatori, battono una dichiarazione per me molto importante del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, cioè colui che ha firmato le 85 pagine in cui non ha detto quando interviene sul deficit, che era quello che, oltre all'entità, che voleva sapere la Commissione europea. Nel question time al Senato il ministro dell'economia e delle finanze dice, virgolette vi leggo, l'ipotesi di procedura di infrazione è estremamente allarmante. Comporterebbe una riduzione di sovranità nella politica economica e costi ben superiori per la finanza pubblica del paese a seguito del probabile aumento dei tassi di interesse. Lo dice lo stesso ministro, che però non ha preso impegno sull'intervento necessario, e dice che se a quel punto c'è la procedura è ancora più costoso perché gli spread salgono e noi paghiamo più interessi. Come conciliate il Padoan 1 che non prende l'impegno a farlo e il Padoan 2 che dice beh, sarebbe molto grave se poi si applicasse la procedura di infrazione? C'è una sola interpretazione, quella che dice me ne frego delle regole e voi non mi fate la procedura di infrazione. L'Italia guadagna in credibilità a comportarsi così? Secondo voi per 3,4 miliardi, di cui oltretutto il governo ha detto che tanto riprende da più entrate per il 76%? Boh, pensateci voi, perché io se do la risposta poi sembra che sono politicamente ostile. Sono politicamente ostile, però ci sono delle cose qua che non tornano. Sull'inchiesta trovate un secondo articolo, questa volta scritto dal direttore Francesco Cancellato, che mette il primo ragionamento che abbiamo già fatto in un quadro più ampio. Il quadro più ampio è quello di Trump, il cui ambasciatore indicato per l'Unione Europea e ha detto, insomma, l'Unione Europea deve andare per l'aria, è debolissima. In realtà ha ripetuto esattamente la critica che è quella portata da chi in Italia dice siamo sotto il talone di ferro dei tedeschi, perché ha detto la Germania ne approfitta, questa Unione Europea non va bene. E da questo stato di fatto è così, Francesco Cancellato, io ringrazio di essere qui, deduce alcune considerazioni. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio. Qual è la considerazione che deduce? La considerazione che deduco è che è evidente, e noi europei dovremmo porci questa domanda prima o poi, perché tutti coloro i quali stanno fuori dall'Europa in qualche modo auspicano o, se preferite, cospirano per la dissoluzione dell'Unione. Molti di quelli che dicono pensano la stessa cosa dentro ti risponderebbero perché hanno ragione. E che ci vogliono un bene dell'anima, fra l'altro, oltre ad aver ragione, nel senso che gli Stati Uniti sperano ovviamente che l'Europa ritorni florida e in salute per sfidare le loro imprese, perché la concorrenza fa bene, e la Russia spera che l'Europa si doti di una politica energetica e di un soft power, e magari militare di difesa geopolitico e militare per controbattere, perché si manca gli avversari in qualche modo, allora, no? Poiché questa è un'ipotesi di scuola e ovviamente non è così, esatto, perché ognuno si vuole rafforzare a danno di altri concorrenti, quindi evidente a mio avviso che è in atto una strategia di indebolimento di una struttura oggettivamente fragile qual è oggi l'Unione Europea, una struttura dove un ministro dell'economia può impunemente dire che non rispetterà gli impegni presi e che sostanzialmente si aspetta che, nonostante ci spetti una procedura di infrazione, quella procedura di infrazione non avverrà, altrimenti vincono i populisti, che è diventato il nuovo mantra, diciamo, il there is no alternative. No, che significa? Io faccio il populista contro i populisti. Peccato che gli elettorati scelgono i populisti originali e hanno ragione, esatto. Non le brutte copie. Il populismo istituzionale diciamo che non funziona di solito. In ogni caso, l'Unione Europea è un'istituzione fragilissima. Il bello è che Trump gioca a carte scoperte in qualche modo mostra chiaramente qual è l'intento delle potenze, diciamo, che stanno attorno all'Europa. Il paradosso che mi viene da dire è che l'Europa è attaccata da Ovest, ormai dagli Stati Uniti e dall'ipotesi che le Brexit si ripetano, comunque, certo. Anche dalla stessa Brexit originale. Theresa May, quando fa il discorso sulla clean Brexit, dice di fatto che faranno concorrenza fiscale all'Europa se non gli darà le migliori condizioni possibili per l'uscita. Potremmo farla anche noi, ci credi tu che qui, quando se torniamo alla lira, abbassano le tasse quando non l'hanno fatto nemmeno sotto i vincoli dell'Unione Europea per contenere il deficit? Io credo l'esperienza italiana dei decenni della lira dice il contrario, però... Noi abbiamo una memoria terribile perché ci dimentichiamo quello che ha detto Draghi un paio di settimane fa, cioè che a livello di saldo di quello che è il conto Target 2... Questo è un problema che affronterò in un'altra puntata, perché è un problema complesso, perché chi ci ascolta non sa cos'è Target 2, quindi il prezzo di uscita dall'euro è molto caro già in termini contabili, diciamo, poi in termini economici, in termini di competitività. E quindi la conclusione a cui arrivi tu è: tentiamo di mettere mano, invece di pensare a romperci, saremo tutti nani e più deboli, a un rafforzamento rispetto ai difetti dell'Unione Europea, così. Fondamentalmente sì, noi abbiamo, diciamo, a mio avviso, quattro strade su cui dovremmo ragionare. La prima, che mi pare essere già abbastanza delineata da discorsi che sono in atto, è quella di dotarci una difesa comune europea, di un controllo dei confini comune europeo. Due. Una politica energetica europea. Noi siamo un continente importatore netto di energia. Tre. Nel senso che non siamo... Tre, l'hai detto tu prima, un mercato del lavoro, una unificato, davvero? Quattro? Quattro, a mio avviso, è un'unione fiscale e politica. E ecco, qua è molto allora tu lo che sai che mano... l'obiezione dei no euro è: ma chi l'ha raccontata? Non ci siamo riusciti per decenni. Allora, questo è il vero problema. Allora, Felice da Latina mi dicono, era in linea, dice: è vero che i prezzi sono abbassati, ma i poveri sono molto aumentati. Verissimo.